9 in punto. Buongiorno, buongiorno e buon Ferragosto a tutti da Gianfranco Fabi. In questa puntata di 9 in punto parleremo di economia, dell'economia globale, dell'economia europea, dell'economia italiana. È Ferragosto, siamo al giro di boa, guardiamo verso l'autunno con tanti problemi sul tappeto, tante ipotesi di soluzione, la necessità che queste soluzioni diventino effettive e si possa finalmente affrontare i nodi della finanza, i nodi del debito e cercare il rilancio, la ripresa dell'economia. È una ripresa che è possibile anche se ha tante difficoltà ma ha tante opportunità. Ne parleremo con Fabrizio Galimberti, con Alberto Quadriocurzo e con Enrico Brivio che ci accompagneranno in questo viaggio. L'economia mondiale, l'economia europea, l'economia italiana, di questo parleremo tra poco a 9 in punto, ma adesso linea al GR. 9 in punto. Buongiorno e ancora buon Ferragosto a quanti ci ascoltano. Il programma di oggi lo dedichiamo a un po' a fare una carrellata sui temi, sui grandi temi dell'economia italiana, dell'economia europea, dell'economia internazionale. Ormai siamo in un mondo globalizzato, lo sappiamo molto bene come sono interconnesse tutte le economie, ma come le decisioni di ciascuno dipendano dalle decisioni degli altri, ma come le decisioni di ciascuno siano anche importanti nelle decisioni appunto globali. Siamo a 4 anni in fondo dall'inizio di questa grave crisi economica. Nell'estate del 2008 ci sono stati i primi segni, i primi scricchiolii sul fronte dei mutui subprime americani e poi è avvenuto quanto è avvenuto. Ne parliamo con Fabrizio Galimberti. Buongiorno Galimberti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Fabrizio Galimberti, economista, editorialista del Sole 24 Ore, è un grande osservatore dei movimenti economici internazionali e proprio vorrei cominciare da lui guardando un po' a questa crisi. Abbiamo detto è iniziata 4 anni fa, festeggiamo questo anniversario, ma non ne siamo ancora fuori, anzi la crisi si è progressivamente allargata, è partita dagli Stati Uniti, dalla finanza americana, si è poi allargata all'economia reale, si è allargata all'Europa che di fronte a questa crisi ha dimostrato la sua fragilità, soprattutto sul fronte dei debiti degli Stati. Allora, per dare quasi un termometro della crisi, cosa possiamo dire a 4 anni di distanza? Non ne siamo ancora usciti, ma siamo più nella fase della crisi o siamo nella fase dell'uscita da questa crisi globale? Fabrizio Galimberti. Beh, io direi che siamo nella fase della crisi numero 2, perché la crisi numero 1 è stata causata dal troppo debito privato e per combattere questo eccesso di debito che aveva portato a delle bolle che poi sono scoppiate con le conseguenze che tutti sappiamo, ecco che gli stati hanno dovuto sobbarcarsi il compito giustamente di sostenere la domanda mettendo domanda pubblica al posto della domanda privata che era venuta a cessare e che minacciava una spirale recessiva. Quindi è stato combattuto il troppo debito privato con iniezioni di indebitamento pubblico che poi hanno a loro volta causato un'altra crisi, ma direi che il problema non sta tanto nell'eccesso di debito pubblico, perché ci sono dei paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti che non conoscono i patemi d'animo che conosciamo invece noi in Europa e per quanto riguarda questa crisi da debiti sovrani. Anche Inghilterra e Stati Uniti sono paesi sovrani, ma hanno dei deficit che sono maggiori di quelli europei, maggiori di quello italiano in particolare, e sono dei paesi che però non hanno nessuna difficoltà a finanziarsi a tassi irrisori. E non hanno nessuna difficoltà perché i mercati sanno che dietro quei paesi c'è un governo unico, c'è una volontà coesa, c'è una banca centrale pronta a diventare un vero prestatore di ultima istanza. Invece questo eccesso di debito pubblico che ha colpito anche i paesi dell'Eurozona ha portato a questa crisi da debiti sovrani, che è legata essenzialmente al fatto che, come sappiamo, di fronte a una politica monetaria unica ci sono politiche di bilancio diverse, non c'è coesione, non c'è coordinamento, non c'è certezza nelle risposte da dare e soprattutto c'è una banca centrale che è statutoriamente e culturalmente legata a schemi che non le permettono di fare veramente il ruolo di prestatore di ultima istanza. Ecco, in fondo si può dire che la crisi è arrivata troppo presto per l'euro, una moneta troppo giovane che non aveva tutte le basi, soprattutto il fatto di avere una banca centrale che avesse le competenze, le possibilità e i poteri che hanno le banche centrali che gestiscono la loro moneta. Ecco, hai accennato agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, possiamo accennare anche al Giappone, dove il debito pubblico è quasi il 200% del PIL. Ecco, un Giappone che peraltro non ha conosciuto una grande crescita economica, e anche Stati Uniti e Gran Bretagna hanno comunque rallentato notevolmente le loro economie. Quindi siamo di fronte anche sul fronte dell'economia reale a una sostanziale stagnazione, a cui fa forse da contraltare solo la crescita di paesi come la Cina, degli altri paesi emergenti, una crescita però che anche in questi paesi sta rallentando. Quindi è un mondo che ha rallentato negli ultimi anni. Sì, direi che ha rallentato, ma ha rallentato, diciamo, per tre ragioni diverse. Non sto a ripetere la ragione per cui ha rallentato l'Europa, perché ne abbiamo appena parlato, c'è questa crisi da debiti sovrani che paralizza la politica economica e ingenera sfiducia. Ci sono poi gli Stati Uniti che hanno rallentato per una ragione diversa. Ecco, gli economisti hanno fatto una brutta figura quando non hanno saputo prevedere la grande recessione, non hanno saputo prevedere quelle letali interazioni fra economia e finanza che hanno messo in ginocchio l'economia mondiale. Però gli economisti hanno avuto ragione quando hanno detto: guardate che dopo questo tipo di crisi la ripresa non potrà che essere lenta, perché quando la crisi è una crisi che è stata originata da un troppo debito e quindi poi da una bolla che è scoppiata, l'unico modo per rimettere l'economia in carreggiata è quella di ridurre il debito. Ridurre il debito vuol dire risparmiare di più vuol dire spendere di meno, e quindi la ripresa non può che essere lenta, perché è frenata dal fatto che le famiglie devono ricostituire dei bilanci in cui si erano aperti dei buchi a causa della finanza allegra. Ora il Giappone, diciamo, ha una ragione simile nello spiegare la lenta uscita dalla crisi. Mentre invece per quanto riguarda i paesi emergenti, e veniamo qui alla terza fattispecie di lentezza nella ripresa, ecco, questa è una lentezza che diciamo non è una lentezza della ripresa, perché loro in pratica non hanno mai smesso di crescere, è solo un rallentamento, ma è un rallentamento fisiologico, perché crescevano a rotta di collo e quindi si stavano creando delle tensioni inflazionistiche, c'erano anche delle bolle immobiliari in via di formazione, e quindi giustamente questi paesi hanno assistito a un rallentamento nel loro tasso di crescita. Insomma, quindi tre fattispecie: la crisi da debiti sovrani in Europa, la lenta ripresa derivante da eccessivo indebitamento precedente negli Stati Uniti e in Giappone, e invece per quanto riguarda i paesi emergenti un fisiologico rallentamento che è non solo normale ma anche auspicabile. Ecco, Fabrizio Galimberti, ma questo rallentamento di economia cinese ha anche in sé un cambiamento un po' strutturale. Negli anni scorsi la Cina era stata un grande paese esportatore, adesso sta diventando anche un paese importatore, un grande mercato, sta crescendo la ricchezza. Quindi la Cina è veramente un'opportunità per trainare la crescita dei paesi, per esempio europei, e per non far nomi dell'Italia? Ma direi di sì, se noi guardiamo alle componenti della crescita cinese vediamo che, come dicevi tu, adesso la componente export è molto meno dinamica, mentre invece sta crescendo la domanda interna, come è normale e auspicabile. Noi per anni abbiamo auspicato sia i paesi concorrenti della Cina che gli organismi internazionali, che sono soliti fare prediche sia utili che inutili, ecco, tutti auspicavamo che la Cina cambiasse il modello di sviluppo, smettesse di accumulare surplus e accumulare riserve valutarie e invece stimolasse la domanda interna, così da offrire maggiori mercati di sbocco ai paesi con cui scambia. Ed è questo che sta succedendo. Le cifre ci dicono che è in corso un rallentamento dell'export, mentre invece non rallenta, anzi direi che aumenta leggermente, per quanto è possibile scavare nella nebbia dei dati statistici cinesi. Direi che sta accelerando leggermente la domanda interna. Ecco, su questo fronte quindi le possibilità per le imprese italiane, per le imprese esportatrici cominciano ad essere significative, ecco, soprattutto per il fatto, pensiamo, che la Cina è un paese di 1.300 milioni di abitanti, si dice che almeno 300 milioni stiano raggiungendo dei livelli di vita di tipo occidentale, con livelli e stili di consumo di tipo europeo. Quindi bisogna puntare su questo paese, sulla possibilità di esportare, ma ecco, diciamo, l'Italia e l'Europa sono attrezzati per farlo? Ma io direi per quanto riguarda l'Italia, direi di sì. La Germania si è già dimostrata abbondantemente capace di farlo, perché offre sia beni durevoli di lusso, in special modo automobili, alle nuove classi medio-alte cinesi, e poi per anni è andata avanti dando macchine utensili e altri beni di investimento alla Cina, che la Cina, come sappiamo, dedica quasi la metà del PIL all'investimento e importa quindi molti beni capitali, di cui la Germania è il più agguerrito esportatore. Noi abbiamo anche noi la capacità di esportare beni di investimento, siamo molto forti nelle macchine utensili e in altri comparti di automazione, e invece per quanto riguarda i beni di consumo abbiamo anche noi buone possibilità, perché noi ci siamo spostati su segmenti di valore aggiunto più elevati e possiamo quindi fornire alle classi medio-alte cinesi, per le quali l'Italia continua a essere un punto di riferimento, possiamo offrire loro questi beni tradizionali per la persona e per la casa, in cui siamo molto forti. Ecco, indubbiamente l'Italia ha delle carte da giocare su questo fronte, però adesso che stiamo, tornerei un po' sul tema della globalizzazione, sul fatto appunto di un sistema globale. Ci avviamo verso l'autunno, ormai con Ferragosto è considerato un po' il giro di boa dell'estate. Guardiamo le politiche economiche dell'autunno, ecco, indubbiamente si parla molto della possibilità di arginare la crisi europea, le scadenze future sono molto importanti sotto questo profilo, anche per la possibilità di mettere in piedi questi strumenti, di rendere efficienti questi strumenti di intervento. Ecco, c'è un rischio per il sistema diciamo economico, direi forse globale, Fabrizio Galimberti, in queste politiche economiche che sono costituite solito un po' dal rispondere alle esigenze e alla crisi del debito con altri debiti, con altri finanziamenti, con altri soldi, in fondo stampando altri soldi. C'è il rischio di un'inflazione magari globale? Ma questo è un rischio che io mi sento assolutamente di escludere. Credo che se abbiamo un rischio oggi sia più un rischio che viene dal contrario, viene da una deflazione, viene da una recessione che si trasforma in cronica stagnazione e che quindi spegne le pressioni sui prezzi. Molto è stato detto a proposito dell'inflazione dal fatto che le banche centrali hanno creato molta moneta con la cosiddetta espansione quantitativa della moneta, e abbiamo la definizione più stretta di moneta, quella più liquida, M1, è cresciuta di molto sia in Europa che in America, però questa moneta non crea inflazione se rimane nei conti correnti, se rimane dormente, se la gente non la spende. E infatti vediamo che a livello di M3, che è una definizione più allargata di moneta, che include anche i depositi a risparmio, i titoli molto brevi, vediamo che quelle definizioni di moneta non destano dinamiche preoccupanti. Certo, se la gente cominciasse a spendere, allora questa moneta che sciacqua nel sistema economico senza creare inflazione potrebbe trasformarsi in domanda di beni e servizi e quindi porre pressioni sui prezzi. Però nel momento in cui questo dovesse succedere, le banche centrali hanno in mano gli strumenti tecnici necessari per prosciugare questa liquidità in eccesso. Quindi penso che oggi ci dobbiamo preoccupare di molte cose, ma non dell'inflazione. Ecco, perché sembrerebbe paradossale una crisi economica che viene prodotta da una realtà come quella della moneta, che in fondo è a disposizione, non certamente di noi singoli persone, ma a disposizione delle banche centrali che possono produrla quanto ne vogliamo. Può essere più comprensibile una crisi petrolifera, perché viene a mancare il petrolio, perché si bloccano magari le vie di comunicazione che fanno arrivare il petrolio, ma una crisi fondata sulla moneta, in fondo da moneta la possiamo produrre quanto ne vogliamo. Non è paradossale, Galimberti? Beh, è paradossale, ma direi anche che è un paradosso che trova la spiegazione nel fatto che in effetti noi non avremo mai crisi causate dalla moneta, se non in casi in cui la moneta venisse usata in modo irresponsabile, come è successo in passato in tanti episodi di iperinflazione. Ma oggi sia due giganti del pensiero economico come Keynes e Friedman, per molti versi su opposti versanti ideologici, hanno detto che la moneta si può creare. Friedman diceva: male che vada, mandiamo elicotteri in giro per il paese buttando giù pacchi di banconote. Ecco, era una boutade, però esprimeva l'idea appunto che se uno volesse veramente stimolare la domanda ci sono dei modi per farli. E Keynes diceva: seppellite sacchetti di banconote, poi date le zappe alla gente e ditegli di scavare. Quindi veramente in questo momento le banche centrali hanno in mano la chiave per poter far ripartire l'economia, e speriamo che finora l'hanno usata saggiamente, in certi casi non così generosamente come avrebbero potuto, però l'importante è che lo strumento c'è e aspetta di essere usato. Ecco, un altro problema importante però proprio per l'uso della moneta, l'uso di questi strumenti, sono le regole che devono sovraintendere in fondo il sistema della finanza, regole che la crisi iniziata 4 anni fa ha dimostrato di essere inefficienti in molti casi a controllare, a tenere sotto controllo un'espansione monetaria, un'espansione degli stessi strumenti finanziari che moltiplicano la dismissione misura i rischi della moneta. Su questo fronte, Galimberti, qualche passo per darsi delle regole globali andrebbe ancora fatto? Beh, su questo fronte sono stati fatti dei passi, magari ancora insufficienti, però io credo soprattutto nel fatto dell'esempio, credo soprattutto nel fatto che quando uno si è scottato poi ci penserà due volte prima di avvicinarsi di nuovo al fuoco. Ecco, oggi il mondo si è scottato, penso che delle cose come i mutui subprime non ci saranno più oggi negli Stati Uniti, anzi non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi sono stati stretti i criteri di accesso ai mutui, sia in termini di deposito sia in termini di coefficienti di reddito necessari per accedere al mutuo. Certamente bloccata una via di uscita, bloccata una via di creazione di strumenti finanziari pericolosi. Noi sappiamo che l'ingegneria finanziaria è molto fertile, quindi se ne potranno creare degli altri. Anche perché però qualcuno si è scottato, ma qualcun altro si è arricchito, e quindi soprattutto a livello delle altre responsabilità delle società finanziarie abbiamo visto che in fondo anche la vanità, o qualcuno dice la bramosia del denaro, ha mosso anche molte cose, quindi può darsi che avvengano ancora episodi di quel tipo. Certamente nel DNA degli investitori c'è una tendenza alla bolla, c'è una tendenza all'arricchimento, costi quel che costi, quindi il gioco della finanza è sempre un gioco di guardie e ladri fra controllati e controllori. Direi che i controllori, i regolatori adesso sono più consci di questi pericoli, infatti prendiamo per esempio il Basilea 3, ecco, il problema del Basilea 3 è che forse è andato troppo in là, nel senso che le regole sono troppo severe se applicate in un momento di stagnazione dell'economia come adesso, però si tratta di regole che sono troppo severe, non che non sono abbastanza severe. Ecco, ricordiamo, quindi Basilea 3 sono le regole che, diciamo, sovraintendono al patrimonio delle banche, che devono garantire che le banche abbiano una solvibilità verso i propri clienti e quindi la stabilità del sistema finanziario. Sì, le banche hanno questa responsabilità, e finora alcune di queste banche non vi hanno assolto in modo adeguato, penso in special modo al fatto dei bonus che continuano a creare grosse disuguaglianze, e grosse invidie sociali e grosse iniquità nei rapporti fra le retribuzioni del settore finanziario e quelle del settore non finanziario. Però in questo momento adesso credo che i problemi sono altri, i problemi sono il fatto che le banche esitano a prestare soldi a imprese e famiglie perché si è un po' paralizzato il sistema interbancario, perché c'è il peso dei debiti sovrani, cioè dei titoli dei paesi sovrani che sono in portafoglio alle banche e creano minusvalenze che abbassano il loro capitale e quindi le costringono a diminuire l'attivo. Ecco, in questo momento i problemi direi non sono tanto quelli di banche fuori controllo quanto di banche che sono prese in questo circolo vizioso della crisi dei debiti sovrani, che è diventata anche crisi del settore bancario, due ecco, crisi che aspettano ancora delle soluzioni risolutive. Ecco, trasformare il circolo vizioso in un circolo virtuoso, questo è in fondo l'obiettivo che dobbiamo avere, dobbiamo guardare all'autunno sperando che sia sul fronte bancario, sia sul fronte finanziario, sia sul fronte politico si possa avviare una nuova fase di crescita dell'economia. Grazie a Fabrizio Galimberti di essere stato con noi in questa prima parte del nostro programma. Ancora buon Ferragosto e linea alla pubblicità. 9 in punto. Rieccoci con 9 in punto, ancora buon Ferragosto a tutti. Abbiamo parlato con Fabrizio Galimberti nella prima parte dei temi dell'economia globale, dei grandi rischi che ancora esistono sui fronti finanziari, ma anche delle grandi opportunità con un'economia cinese che, pur rallentando, comunque è una grande economia e si presenta come un grande mercato, come delle grandi opportunità per le imprese italiane. E già con Galimberti appunto dicevamo che uno dei nodi di fondo che dovrà sciogliere l'autunno sarà quello dell'euro, della stabilità dell'euro e della maturità dell'euro, una moneta, si diceva, che forse non ha avuto il tempo di consolidarsi, la crisi è arrivata un po' troppo presto per la moneta unica europea e ha messo in luce le fragilità dell'euro. Ne parliamo con Alberto Quadriocurzio. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore di economia, professore emerito di economia all'Università Cattolica, direttore del centro di ricerca e di analisi economica della stessa Università Cattolica, ha recentemente pubblicato il libro Economia oltre la crisi. Ecco, economia oltre la crisi, professor Quadriocurzio, possiamo dire in questo Ferragosto, a 4 anni dall'inizio della crisi economica, che siamo al giro di boa, che siamo oltre la crisi? Temo proprio di no. E purtroppo le ragioni principali della crisi sono sempre condensate nel contesto della Eurozona, che pur avendo dei fondamentali molto migliori di quelli degli Stati Uniti, tuttavia è in crisi perché non riesce a trovare una governance adeguata per raddrizzare da un lato il proprio processo di crescita e da un altro lato mettendo in sicurezza i debiti pubblici di taluni paesi cosiddetti periferici che in questo momento stanno soffrendo particolarmente, e tra questi vi è anche l'Italia, perché i tassi di interesse sul nostro debito pubblico a questi livelli non potranno essere sopportati a lungo. Quindi la crisi continua ad esserci, si potrebbe andare oltre se l'Europa trovasse un ubicon system di governo forte, ma per adesso tutto ciò non mi pare sia all'orizzonte. Ecco, l'Europa come elemento centrale nelle difficoltà di questa crisi. Saluto Enrico Brivio, buongiorno Enrico. Buongiorno. Che è qui con me, giornalista del Sole 24 Ore, responsabile delle pagine di commenti e inchieste, che è stato per tanti anni corrispondente da Bruxelles, che ha visto nascere un po' l'Europa dell'euro, le grandi speranze dell'Europa dell'euro. Enrico Brivio, sono un po' scontrate con questa crisi che è arrivata un po' troppo presto, un po' troppo all'improvviso. Non c'è dubbio, ricordare adesso l'entusiasmo con cui si andava in bancomat a ritirare i primi euro, c'è un'atmosfera indubbiamente diversa e giustamente, come diceva il professor Quadriocurzio, si sconta il fatto di aver fatto una scommessa, cioè di aver creato una Europa economica, una moneta unica e senza far progredire di pari passo l'unione politica. E quindi ora i mercati stanno facendo scontare questa asimmetria ed è fondamentale che i governanti europei, i leader europei diano una spinta anche all'unione politica, all'unione fiscale, perché altrimenti c'è il rischio appunto che poi i paesi che hanno un carico di debito maggiore ad altri come l'Italia o paesi che hanno altri elementi di fragilità anche maggiori come la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo, siano poi quelli vengono messi all'angolo. Ecco, su questo fronte la Germania, professor Quadriocurzio, è vista un po' come la protagonista del bene e del male, la Germania che potrebbe ovviamente con la sua potenza essere il centro di un'azione di salvataggio dell'Europa, ma che con le sue resistenze, con le sue in certo senso anche ambiguità, rischia di aggravare superare la crisi. Ieri la Corte Costituzionale tedesca, le danno notizie ai giornali oggi, ha confermato per il 12 settembre la sentenza per la costituzionalità del fondo salva stati, la partecipazione della Germania a questo fondo. Ecco, il ruolo della Germania, professor Quadrio Curzio, è fondamentale. Lo è, e lei ha detto molto bene che ha luci e ombre questo grande paese. Le luci sono certamente un'economia manifatturiera molto potente, dei conti pubblici sostanzialmente in ordine e una buona capacità di crescita, soprattutto orientata all'export. Tra i punti di forza apparenti vi è oggi anche la capacità di questo paese di raccogliere risparmio a tassi di interesse reali addirittura negativi. Questa è una forza apparente, perché non ha alcun senso in un contesto di debolezza dell'Europa considerare la Germania esente da rischi e correre dunque a prestare la stessa del denaro pagandole anche sopra gli interessi e andando contro quella che è la logica economica elementare. Tuttavia la Germania fruisce, a mio avviso, in questo momento di questo vantaggio che in qualche modo la rende anche un po' euforica. In altre parole, più forte si ritiene d'essere di quanto essa stessa sia, perché anche in Germania la crescita sta rallentando, gli ultimi dati sulla dinamica degli ordini sono stati piuttosto brutti e quindi se l'Europa o l'Eurozona più precisamente andrà ad indebolirsi ancora di più fino addirittura al limite che speriamo non sia mai raggiunto della rottura, anche la Germania pagherebbe un prezzo molto alto. Per quanto riguarda il riferimento giusto che lei ha fatto alla valutazione, alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca sulla ammissibilità del European Stabilization Mechanism, credo che il problema sarà risolto con un parere favorevole a questo meccanismo. Ma ciò nonostante io ritengo che quel meccanismo non sia adatto a risolvere la crisi europea, perché è un meccanismo di salvataggio, non è un meccanismo di prevenzione e meno che mai è un meccanismo di unificazione, almeno parziale, del mercato finanziario dei titoli di Stato europei e per il rilancio della crescita. Quindi se l'Europa continua a muoversi nella logica della Croce Rossa, dei salvataggi, non credo che uscirà da questa crisi. Ecco, ma professore, siamo ancora in tempo, in un certo senso, a ripartire da zero, perché giustamente i tedeschi dicono: perché dobbiamo pagare noi una spesa pubblica eccessiva da parte dei greci o degli italiani? Perché dobbiamo pagare noi le pensioni o la sanità di paesi che non riescono a tenere sotto controllo questi elementi della spesa sociale? Ecco, forse bisognerebbe ripartire da zero, ma ripartire da zero è quasi impossibile. Ma indubbiamente molti paesi debbono gestire le proprie finanze pubbliche con molto maggior rigore ed oculatezza. E tuttavia allo stato attuale, negli anni della crisi, la Germania non ha messo nulla rispetto ad altri paesi di quanto non fosse proporzionalmente necessario mettere date le dimensioni delle diverse economie. Se prendiamo per esempio il fondo attualmente vigente EFSF, la Germania ha dato garanzie a quel fondo per il 27% del fondo stesso, l'Italia l'ha dato per il 18%, cioè hanno dato garanzie proporzionali alla dimensione dei due paesi. E dunque la Germania per ora non si è addossata nulla, anzi per taluni versi l'intervento di soccorso alla Grecia, che in un modo o nell'altro è già costato 330 miliardi di euro, in parte è ritornato a beneficio della Germania stessa, perché le sue banche erano esposte molto di più delle banche italiane. Dunque, talune lamentele della Germania sono giuste in linea di principio, ma in linea di fatto non sono giustificate, perché durante la crisi la Germania non ha ancora messo nulla di quanto non dovesse mettere rispetto alle sue proporzioni, con riferimento a quelle di altri paesi, nel contesto dell'Eurozona. Quindi la Germania resta un punto centrale, ma non c'è solo la Germania. Chiedo a Enrico Brigio, proprio in una prospettiva europea, ci sono ovviamente altri paesi, non certo grandi come la Germania, che però pesano, che contano, che hanno il loro ruolo, anche perché su certe decisioni c'è ancora un diritto di veto, un'esigenza di unanimità di decisione da parte dell'Europa. Come vedono alcuni paesi, si è parlato per esempio della Finlandia, dell'Olanda, del Belgio, che hanno degli atteggiamenti che stanno diventando in un certo senso anti-europeisti, sta crescendo questo malumore verso l'Europa, al di là appunto dei problemi della Germania e dell'Italia. Enrico Brivio. Sì, ci sono senz'altro dei paesi come la Finlandia e l'Olanda che negli ultimi tempi hanno preso delle posizioni spesso rigoriste, al di là addirittura di quelle tedesche. Anche se io ritengo che questi paesi, una volta che la Germania si ammorbidisse, farebbero fatica a mantenere una posizione così intransigente, nel senso che la chiave di volta secondo me rimane Angela Merkel. Però è vero che c'è un problema di governance, di decisioni che in Europa dovrebbero essere ormai prese a maggioranza, sebbene qualificata, ma questo non è in tutti i settori ancora, purtroppo. E c'è un problema che penso al quale facesse riferimento il professor Quadrocurzio, che è tra l'altro uno degli estensori di una proposta per degli Union Eurobond, cioè di comunione di almeno parte del debito pubblico, cioè di fare quel passo politico, economico, che dia veramente una unità, un'idea di unità anche ai mercati, e quindi scoraggi anche operazioni speculative contro questo o quel paese. Però appunto anche lì c'è la necessità di convincere sia l'opinione pubblica tedesca sia l'opinione pubblica di questi altri paesi nordici che sono vicine a queste posizioni. E appunto è molto importante superare quello cui faceva riferimento il professor Quadrocurzio, cioè quell'ottica del do ut des, di ricevere dall'Europa esattamente quello che si dà, perché altrimenti l'Europa non va avanti e soprattutto non si prende in conto che la Germania ha comunque dei benefici che vanno al di là di questi misurati col bilancino: un grande mercato unico in cui può vendere i suoi prodotti e al quale può trarre grandi benefici. È una moneta che ormai, quella tedesca, non costa nulla, vedo tassi di interessi uguali a zero. Ecco, professor Quadrocurzio, può ricordare questa proposta di Eurobond che lei l'anno scorso ha lanciato insieme a Romano Prodi, peraltro? Ecco, che cosa direbbe oggi ad Angela Merkel per convincerla sulla validità di un passo di questo tipo? Ma guardi, la proposta Prodi-Quadrocurzio pubblicata il 23 agosto dello scorso anno su Sole 24 Ore aveva due punti caratterizzanti. Il primo punto era la necessità, come diceva prima Enrico Brivio, di creare un mercato dei titoli di Stato, chiamiamoli europei, tra virgolette, dell'Eurozona, sufficientemente ampio e liquido per poter essere attrattivo di risorse finanziarie su scala mondiale. Attualmente, se noi prendiamo il più grande debito pubblico europeo, che è quello della Germania in termini assoluti, e lo paragoniamo al mercato dei titoli del debito pubblico americano, che rimangono i più liquidi, abbiamo circa una dimensione di un quinto. Dunque, creare un grande mercato, ma far sì anche che questi titoli di Stato europei, continuo a chiamarli titoli di Stato semplicemente per evocare la tipologia, certo, di emissione di titoli da parte di non singoli stati, ma di una, chiamiamola così, eurozona unificata, avrebbe dovuto avere delle caratteristiche di garanzie assolute, non solo di garanzie di firme da parte dei soggetti partecipanti all'emissione, ma garanzie reali. Dunque noi facevamo la proposta di dare in garanzia a questo fondo finanziario europeo che avrebbe dovuto emettere Euro Union Bond, innanzitutto tutte le riserve auree dei paesi dell'Eurozona che sono di gran lunga le maggiori su scala mondiale, circa 350 milioni di once che oggi hanno un controvalore che supera largamente i 450 miliardi di euro. Ecco, su questo problema, fermo un attimo, torneremo subito dopo, ma dobbiamo dare le notizie sul traffico. 9 in punto. Rieccoci con noi Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di economia politica all'Università Cattolica. Stava illustrando la proposta appunto di Euro Union Bond che ha fatto lo scorso anno dalle colonne del Sole 24 Ore insieme a Romano Prodi, mettendo a garanzia di questo fondo le riserve auree. E stava dicendo il professor Quadrio Curzio che l'Europa è sotto questo profilo una delle realtà economiche più ricche di oro. Non c'è dubbio, più di 100 milioni di onci in supero alle riserve degli Stati Uniti d'America. In secondo luogo noi proponevamo anche di conferire a garanzia della solidità del Fondo Finanziario Europeo che avrebbe dovuto emettere Euro Union Bond anche le azioni delle reti infrastrutturali dei paesi dell'Eurozona. E questa non era solo una proposta, diciamo così, di tipo patrimoniale per dare garanzie, ma anche una proposta di tipo economico, perché se si riuscissero a unificare davvero tutte le reti infrastrutturali dell'Europa, si darebbe una spinta formidabile all'attuazione del mercato interno, creando delle economie di scala, come si suol dire, davvero formidabili. In terzo luogo noi facevamo la proposta, laddove necessario, di conferire azioni di altri beni patrimoniali di tipo mobiliare o immobiliare, così da rafforzare questo fondo finanziario europeo. Infine, il fondo finanziario europeo avrebbe dovuto adempiere a due scopi. Da una parte rilevare, come diceva prima Brivio, una quota dei debiti pubblici nazionali, in modo da alleggerire la controparte mercato dei singoli stati, dando per una parte dei debiti pubblici una controparte ai singoli stati che non avrebbe avuto alcun intento speculativo, avrebbe portato i titoli alla scadenza, avrebbe potuto praticare degli interessi più fondati rispetto a quelli che subiscono delle formidabili oscillazioni del mercato. In secondo luogo per fare investimenti in infrastrutture, ma non solo. E questi investimenti avrebbero dovuto dare, a nostro avviso, anche più forza a questo fondo finanziario europeo, perché conferiva lo stesso non più la natura del fondo salva stati pro quota, ma anche la natura di un fondo per alimentare la crescita, perché l'Europa, ahimè, sta crescendo troppo poco e questo è un altro handicap. Certo, abbiamo avuto proprio nei giorni scorsi notizia che anche la Francia ormai è arrivata alla crescita zero, anche un paese come la Francia sta rallentando, abbiamo accennato prima al rallentamento della Germania. Ecco, professor Quadrio Curzio, lei ha accennato appunto a questa possibilità di intervenire con un fondo ad hoc di tipo europeo. In Italia si sta parlando per l'autunno di proposte che vengono dai partiti e vengono dallo stesso governo di realizzare un fondo per agevolare la dismissione del patrimonio pubblico e attraverso questo ridurre in maniera significativa il debito pubblico italiano. Come vede questa possibilità? Ma io credo che sia un argomento importante e credo che soprattutto la proposta Bassanini-Amato sia particolarmente meditata e non sia la proposta generica recuperiamo 500 miliardi tutti di un botto, cosa impossibile, per fare fumo. La proposta Bassanini-Amato è ben articolata, punta su una dismissione di 150-200 miliardi da qui al 2017, ma tuttavia questa proposta, a mio avviso, trova un ostacolo fondamentale nella debolezza dei mercati in questo momento. Collocare sul mercato dei beni, siano essi beni immobiliari o siano essi beni immobiliari, è estremamente difficile. Ecco perché io continuo a pensare, e con Romano Prodi ci stiamo lavorando, che sarebbe molto meglio trovare la possibilità di conferire in garanzia questi beni a un fondo europeo per ridurre il nostro debito pubblico, o comunque per spingere davvero questo fondo europeo ad intervenire col meccanismo antispread. Sotto questo profilo vorrei ricordare che l'attuale fondo salva stati in operatività, EFSF, ha ancora 140 miliardi di utilizzo possibile che non utilizza. Ebbene, perché non utilizza questo disponibile per fare quel meccanismo anti-spread di cui noi avremmo enorme bisogno? E questo credo che sia un punto su cui il governo non dovrebbe farsi tanti riguardi per dire ce la facciamo da soli. E noi siamo dei contributori a quel fondo. Tutti dicono che i tassi di interesse che stiamo pagando sono anomali. Ebbene, dunque, l'Europa di cui noi facciamo parte e che abbiamo costruito con altri, ebbene, venga incontro al nostro paese. Ecco, forse Enrico Brivio può risponderci, ma l'Italia forse ha avuto scarso peso nelle decisioni europee, almeno fino a qualche mese fa. Ma forse sì, non dobbiamo comunque dimenticare in questo momento che appunto ci sono anche delle responsabilità italiane. Cioè, è giusto fare pressioni sulla Germania perché mette tutto il suo peso adesso nello scudo salva stati e anti-spread. È giusto chiedere ai leader europei di fare un passo avanti in Europa politica, però anche non dimentichiamoci i benefici che l'Italia ha avuto dall'euro in questi anni: tassi bassi, la gente ha potuto finanziarsi dei mutui agli stessi tassi dei tedeschi per 10 anni, le imprese hanno potuto finanziarsi a tassi bassi, alcune l'hanno sfruttato per migliorare la competitività, altre meno, e soprattutto non si è sfruttata forse questo periodo per abbattere il debito come si doveva. E quindi non dimentichiamoci, ecco, da un lato i benefici che abbiamo comunque avuto dall'euro, soprattutto adesso che si va in una campagna elettorale che magari potrebbe vedere far affiorare alcune pulsioni anti-europee. Ma soprattutto anche che c'è un lavoro che andava fatto e che bisogna ancora fare sul fronte delle riforme. Anche perché l'Italia comunque ha sottoscritto all'inizio degli anni 90 il Trattato di Maastricht prevedeva un rientro graduale del debito, anzi pensavo il paletto del rapporto debito-PIL al 60%, l'Italia è entrata nell'euro avendo un debito molto più alto, ma garantendo di ridurre progressivamente nell'arco di alcuni anni questo debito, cosa che non è stata fatta anche negli anni in cui non c'era la crisi, non c'era una grande crescita, ma non c'era la crisi. Questo non è colpa dei tedeschi. E questo non è colpa dei tedeschi. Forse, ecco, un po' di mea culpa, professor Quadriocurzio, gli italiani dovrebbero farlo guardando un po' al passato. Non abbiamo sfruttato gli anni in cui potevamo avviare una vera riduzione del debito pubblico. Quanto detto Brivio e lei è totalmente condivisibile. Noi abbiamo avuto grandi benefici dall'euro, non abbiamo sfruttato a fondo queste possibilità. Vorrei però, a precisazione, a integrazione, certamente non per dissociarmi da quanto è stato detto, perché mi trovo perfettamente concorde, è che alla fine del 1998, quando il governo Prodi cadde, lo spread tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedeschi si era annullato e il nostro debito pubblico aveva incominciato a scendere significativamente, poi ha ricominciato a traballare un po' e poi è ricominciata la risalita del debito pubblico su PIL. Quindi un cammino virtuoso era stato impostato soprattutto dal duo Prodi-Ciampi, cammino che poi via via ha subito delle interruzioni e addirittura delle inversioni di rotta. Comunque tutto quello che io stavo dicendo adesso è perfettamente compatibile, almeno a mio avviso, con le vostre giustissime critiche alla tendenza di lungo periodo dell'Italia a non fare le riforme. Ecco, comunque dobbiamo guardare anche ai lati positivi. Peraltro domani in questo stesso programma parleremo dell'Italia che va, dell'Italia che va bene, di un'Italia che produce, in cui ci sono imprese che sono leader mondiali in alcuni settori, di un'Italia che riesce anche a superare le difficoltà. Questo non perché la realtà sia sempre manichea, c'è un bene da una parte e un male dall'altra, ma perché la realtà è composita. Spesso cerchiamo, spesso mettiamo in rilievo, e soprattutto noi giornalisti dobbiamo ogni tanto fare un mea culpa, solo gli aspetti negativi. Il male fa più notizia del bene, se c'è il bene non fa notizia. Però ecco, professore, l'Italia ha delle grandi potenzialità in questo senso. Forse quello che manca è una volontà politica di usare nella maniera giusta queste potenzialità, e soprattutto nel liberare delle risorse che adesso sono ancora prese in quelle che negli anni Ottanta Guido Carli definiva lacci e laccioli. Professor Quadrio Curzio. Anche su questo concordo pienamente con lei. L'Italia è un paese che fa un campionato del mondo nei dualismi, perché ha dei punti di forza straordinari e dei punti di debolezza straordinari, e certamente tra le debolezze, gli impicci e tutto il resto è un sistema normativo, è un sistema di burocrazia che veramente rappresenta un gravame enorme sul sistema produttivo. Oltre a questo abbiamo altri due enormi handicap. Uno è il divario nord-sud che non riusciamo a superare, che se riuscissimo a superare davvero farebbe dell'Italia uno dei paesi più forti d'Europa, ben di più di quanto esso sia adesso. E l'altro aspetto che rimane problematico, certamente preoccupante, è quello del sommerso e dell'evasione. Ecco, se l'Italia riuscisse a superare questi due deficit, al quale vorrei anche unire da ultimo, ma non irrilevante, il deficit energetico, se riuscisse a superare questi tre grandi deficit avremmo un paese davvero forte, e anche il debito pubblico sul PIL incomincerebbe a scendere perché la crescita sarebbe più forte. Senza crescita quel rapporto si può mettere mano al numeratore, cioè al debito in termini assoluti, ma il rapporto non scenderà. Ecco, sono problemi che sono anche delle opportunità, perché riuscire a vincere l'evasione fiscale e il sommerso, riuscire a smuovere questo mezzogiorno che ha tanti problemi ma anche tante risorse, soprattutto dal punto di vista delle capacità, della volontà, della passione delle persone, ecco, possono essere delle carte da giocare che l'Italia potrebbe giocare per avviare la strada della crescita. E sbloccare questo paese forse non è facile, ma è indispensabile, Enrico Brivio. Ah, non c'è dubbio che lì si gioca una grande partita, quella di far ripartire la crescita, e anche perché indubbiamente il nostro paese ha un tessuto industriale invidiabile, che è un nostro punto di forza rispetto a quello di altri paesi che sono più in difficoltà di noi, come la Spagna, e proprio da lì bisogna ripartire. Sappiamo come anche l'operato della Banca Centrale Europea, la strategia di Draghi, sia di assicurare liquidità a queste imprese, e come a volte le banche si siano rivelate un canale di trasmissione non proprio efficace di questo accesso al credito. Ci sarebbe, no? Sicuramente da parlare, sì. A lungo. Anche l'Italia peraltro è anche capace di farsi del male da sola, come dimostra questa triste vicenda dell'IRVA in questi giorni, che meriterebbe appunto un approfondimento. Ma per concludere, professor Quadrio Curzio, i 30 secondi, dobbiamo comunque avere speranza che in questo autunno qualcosa si possa smuovere nonostante tutto. Sì, io sono fiducioso che si potrà rilanciare la costruzione dell'Eurozona e che l'Italia potrà dare un contributo importante a questa operazione. La mia preoccupazione è che il riflusso statale nazionalistico abbia il sopravvento e che l'Europa via via vada ad indebolirsi. Io non credo ad un destino dei singoli paesi europei se non uniti nell'Eurozona e nell'Europa 27, perché con le dimensioni mondiali di colossi come Stati Uniti, Cina e altri, pensare che i singoli paesi europei, vi compresa la Germania, avranno un qualche rilievo mi pare davvero ingenuo. Grazie, bisogna appunto cercare di ritrovare questa unità di fondo che comunque è nell'interesse di ciascuno ma anche nell'interesse di tutti. Concludiamo qui questa puntata di Ferragosto di 9 in punto, l'appuntamento è per domani, come vi dicevo parleremo dell'Italia che va bene, di un'Italia che cerca di avere speranze concrete sulle realtà concrete, sui risultati concreti delle imprese, cerca di costruire qualcosa di positivo anche portando appunto degli elementi alla crescita comune. Grazie a Fabrizio Galimberti che ci ha accompagnato nella prima parte, ad Alberto Quadrocurzio e Enrico Brivio in questa seconda parte, grazie a Luca Cremonese in redazione e a Carmelo Lauricella in regia. L'appuntamento è per domani, buon Ferragosto. Radio 24, la passione si sente.